la mia mente. È una cosa così sporca che la farei per niente. Sento accettano nuovi iscritti alla pagina Clandestino Cheat. Siamo ritornati qui su Fuori Onda Radio 2323 con i soliti problemi che affliggono non soltanto l'Italia ma anche Clandestino Cheat, porca di quella miseria. Ogni lunedì la grande mano anche che domina sull'Università della Calabria, che comunque non vuole riuscita eccellente, perché comunque è sempre perfetta, ma parliamo di eccellenza della trasmissione. Eccellenza come i servizi in Italia. Certo, noi comunque è giusto dirlo, Peppe, anche un servizio pubblico, cioè offriamo un servizio che comunque non va. Magari fossimo in Islanda, Peppe, non lo so, potremmo fare anche una TV. Clandestino Cheat TV. meglio la radio che è più incognita, diciamo. La televisione non lo so, poi ci devo, mi devo fare la barba, non lo so, mi devo vestire bene. Oh no, Cicci. Vabbè, sei vestito bene, beh. Bene, ti piace come... scherzi a parte, no, a parte gli scherzi, come vogliamo dire la stessa cosa, facciamo un saluto innanzitutto a Tarlo, il nostro inviato da Roma, e un saluto al Blues, Lorenzo Blues, Kid Blues, Madonna. E Tarlo, che è pure alla Zarra, un saluto pure, che ci ascolta dalle Masonette. E volevamo partire con la prima puntata della nuova rubrica di Clandestino, Intervista all'artista. E questa intervista all'artista è una telefonata ad un artista locale, emergente, quindi indie, diciamo, questo termine che è molto figo, dato che si usa sempre dire indie, questo che è indie, se non è indie questo, indie deriva da indipendente, cioè che non fanno parte delle major, che sono la Sony, la EMI, quell'altra cosa là, Poi è stato, diciamo, modificato il termine negli anni, indie, mo sono chiunque è indie. Quindi, comunque, questo ragazzo non è un ragazzo del server, ma è un ragazzo che suona la chitarra. Adesso lo chiamiamo Ciccio. Va bene, certo. Poi questa, comunque, come hai detto tu, una nuova rubrica, intervista all'artista, spazio musicale a chiunque ha voglia di comunque di fare della nuova musica, isolando la visione che c'è dell'attuale, fuori la portata comunque di Maria De Filippi, innanzitutto, che salutiamo, anche Maurizio Costanzo, ti vogliamo tanto bene. Sì, Maria De Filippi ci sta ascoltando, salutiamo tutto lo staff di Amici, tutti i professori, e niente Peppe, partiamo con l'intervista all'artista. Pronto, chi è? Ciao, sono Salvatore Borelli, in arte Mano Libera, cantautore calabrese, precisamente di Sersale, in provincia di Catanzaro. Laureato in musica all'Unical di Cosenza, aspirante cantautore, speriamo. Buonasera. Buonasera, è un piacere averti su Clandestino C. Quando ti sei avvicinato alla musica? Ho iniziato a suonare la chitarra a 18 anni, autodidatto. Ho iniziato con le prime canzoncine, diciamo, che si imparano alla chitarra, canzoncine per modo di dire, come i classici dei cantautori De Gregori, Battisti. Poi piano piano ho iniziato a migliorare, ho iniziato a suonare con il primo gruppo, gli Stato Puro, e poi dopo un bel po' di anni di chitarra suonata con il gruppo, ho iniziato a intraprendere la carriera da solista, diciamo, come Mano Libera. Ok, quindi ci vuoi parlare del tuo progetto Mano Libera? Più che un progetto è il bisogno di suonare musica cantautoriale, più che altro. Il nome non è un progetto, ma è bensì solo un modo per definire la mia musica, come nasce, a mano libera, diciamo, di getto. Non seguo schemi, oppure non preparo prima musica e poi testo, ma produco il brano contemporaneamente, con chitarra in mano e foglio e penna al mio fianco, diciamo. Ho capito, quindi sostanzialmente proprio l'arte di un autodidatta. Sì. Esattamente. E che genere produci? Faccio musica cantautoriale italiana. Ho capito, sì. Quindi anche rock progressive? No. Sei sulla scena contemporanea, diciamo? Sì, mi ispiro più che altro a Brunori, Dente, Molteni, cantautori, diciamo, degli anni zero. Perfetto. E il tuo, comunque, Mano Libera, quindi, quando nasce? Nasce nel 2011, quando produco il mio primo singolo, come un buon segno, registrato al Dressmaier My Soul Record di Marzio Lia, e poi prosegue fino ad ora con la produzione di altri due singoli, che sono Noi all'Eterno e quest'ultimo Non è colpa mia. Prima di ascoltare il brano, se puoi, ce lo puoi introdurre con una descrizione? È prevalentemente una dichiarazione che fa un uomo alla sua ragazza, diciamo, che se la storia dovesse finire, più che altro colpa della ragazza. Infatti diciamo che è molto chiaro il testo, non è di difficile comprensione. Benissimo, quindi sul romantico, diciamo. Sì, diciamo sul romantico. La cosa che ti volevo chiedere, hai registrato su CD, LP? No, diciamo che la produzione avviene direttamente poi su web, tramite il canale YouTube, MySpace, SoundCloud e Facebook, diciamo. Perfetto, quindi diciamo uno schiaffo netto a copyright. Sì, sì, sì. Per la Creative Commons, sì. Positivo, positivo, diciamo, un modo, cioè, innovativo per divulgare la propria musica. Buonasera, chi abbiamo in linea? Sì, innovativo e soprattutto attuale perché sono i canali dove la musica ormai viaggia a velocità supersonica, diciamo. Capisco. Un'esplorazione tua della scena attuale, anche in Italia, della scena musicale. E la scena musicale italiana è abbastanza segnata da questi talent che ormai circolano in televisione. Amici o X Factor, le major prevalentemente producono i dischi di questi artisti che escono dalla TV. La musica indipendente sta iniziando ad uscire fuori, a venirne fuori, però sempre tramite il circuito indipendente. Si fa più che altro nei locali, nelle manifestazioni fatte ad hoc per questa. E purtroppo ne risentono gli artisti, magari anche come me, che magari non hanno una visibilità eccessiva, diciamo, che per suonare devono comunque sbattersi da un locale all'altro, non sempre gli va bene, magari restano estati fermi senza suonare. E sfruttano il web per far sentire un po' alle persone la propria musica. Certo, comunque utilizzarla come una sorta di locale virtuale. Sì, esattamente. È la cosa giustissima questa. Va benissimo, sa. Noi di Clandestino siamo dalla tua parte, comunque anche contro tutti questi programmi spazzatura che alla fine, diciamola tutta, anche nel Sanremo stesso, se vogliamo dirlo, è stato tutto frutto di un televoto e artisticamente parlando spariamo a zero. Sì, Sanremo era una bellissima vetrina negli anni passati, come abbiamo detto prima, con l'introduzione di questi talent televisivi, ormai è chiaramente rivolto a quei ragazzi che escono e devono vincere per forza Sanremo perché devono vendere i dischi perché è un rito ormai. E comunque anche il fatto dell'essere commerciale, del vendere, che incide tanto anche sulla musica. Sì, commerciale inteso come le major, sì, la classica canzone pop che deve arrivare subito al pubblico, alle ragazzine, ai ragazzini, con i soliti testi, diciamo, cuore, sole, amore, perché comunque può essere commerciale anche il pezzo di un cantautore, però diretto verso altri pubblici, un altro tipo di pubblico, diciamo. Più indipendente, più di nicchia, chiamiamolo. La solita, certo, vabbè, anche noi utilizziamo spesso questo termine di musica di nicchia. Sì, Speriamo di. perché faccio un esempio, Brunori e Dente sono abbastanza commerciali come musica, però fanno quel tipo di musica cantautoriale che comunque interessa una cerchia di persone, sempre legate al filone cantautoriale passato. Benissimo, sì. E questo comunque è anche un lato negativo, purtroppo, che si vive, come dicevi tu prima, comunque un artista emergente che deve anche lottare parecchio per arrivare, non dico sulla scena, però per essere valutato in un certo modo. Sì, diventa più difficile per un emergente farsi notare. Tu, da parte tua, hai partecipato a qualche concorso, contest? No, in questi 3 anni, come ho detto prima, solo tramite web. Ho fatto qualche apparizione in qualche locale, ma niente di più. Anche Perfetto. perché ancora sono agli inizi, ho 3 singoli e ancora bisogna lavorare un pochino per poter presentarsi magari ad un pubblico con un lavoro più ricco di contenuti, diciamo. Capisco. Va bene, sa, l'intervista finisce qui. Ti auguriamo un futuro florido. Ringrazio. Musicalmente, naturalmente, valutato come si deve. Adesso ascoltiamo il tuo pezzo. Non è colpa mia. Sì. Un augurio di una buona serata. Grazie anche a voi, è stato un piacere. ad amarmi, non dirmelo così. Fra tutti questi anni lo sbaglio sarai tu. E non telefonarmi o cambio numero. Se vuoi puoi trovarmi su un canale di YouTube. E non è colpa mia, e non è colpa. Ringraziamo nuovamente Mano Libera e il suo pezzo Non è colpa mia. Volevo salutare gli amici di Serzale che ci stanno ascoltando, lo stesso Salvatore Borelli, il Royal Café. Certo, facciamo pubblicità perché è dei nostri tremendissimi Jamaican Crivaro, che salutiamo, e naturalmente salutiamo Peppissimo, che notizie di ansia all'ultima ora ci informano che si è trasformato, quindi tra un po' assisteremo al super Peppissimo. Bene Peppe, adesso passiamo alla pagina green, tutto green, all green. La pagina green che oggi ci porta sulla Salerno Reggio Calabria, caro Peppe, la tua strada, la strada che porta comunque, che tu porti nel cuore, quella con quattro corsie, Peppe. Sì, sì, quattro corsie per senso di marcia, ricordiamo, non... Vabbè, particolari. Comunque, le notizie sono dalla Salerno Reggio e precisamente dal tratto autostradale compreso tra Scilla e Bagnara Calabra. Praticamente c'è il progetto ideato dagli architetti Giovanna Saracino e Francesco Colarossi, che prevede praticamente il recupero di un viadotto destinato alla demolizione e la conseguente riqualificazione del tratto autostradale nel progetto SolarWind. Praticamente l'ultima novità in fatto di energia rinnovabili saranno 10 km trasformati in una fonte di energia verde, un autentico ponte solare. Praticamente sotto il manto stradale saranno ideate delle 26 turbine eoliche tra un pilone e l'altro del viadotto, per una resa totale di 22.000 megavolt, non so perto. E praticamente invece la pavimentazione, ascoltate, la pavimentazione sarà fotovoltaica, che genererà 11.000 megavolt di energia all'anno. Il progetto in tutto costerà praticamente 40 milioni di euro, che praticamente è l'equivalente del costo dello smantellamento del viadotto. Quindi tanto vale investire in un progetto che porterà energia pulita innanzitutto, e comunque un beneficio all'autostrada stessa, alla 3, e non comunque investire per demolirlo, no? Sempre 40 milioni di euro sono per... comunque poi nell'articolo c'è la premessa che resta solo da vedere quando l'ammirevole progetto potrà passare dalle parole ai fatti, possibilmente senza infiltrazioni della malavita. Ma non esiste la malavita in Italia, in Calabria soprattutto abbiamo il mare, il sole, il vento, belle donne, buon vino, e blues. Sì, diciamo che... che volevo dire? Volevo dire qualcosa, ma mi sono dimenticato. Ah, sulle paleoliche. Sicuramente non entrerà nessuna infiltrazione mafiosa negli appalti di queste paleoliche, come è già successo in altre zone della Calabria. Lì sono state costruite a regola, non c'è nessuna... Soltanto che le mezze sono sequestrate perché... ci sono stati dei problemi con infiltrazioni mafiose, ricordiamo il parco di Solo Capo Rizzuto, oppure quello di Girifalco, e altri parchi eolici che sono stati, diciamo, pianzati qua e là come... Diciamo che l'eolico è bello, però l'hanno messo, diciamo, hanno spinto troppo sull'eolico, e quindi adesso troviamo delle intere foreste di queste paleoliche, che non sono belle da vedere, non... Diciamo che i microimpianti sarebbero consigliabili, hanno fatto dei macroimpianti che sono degli scempi allucinanti, come il blues di Lorenzo Blues. Che è successo, Ciccio? Vai. No, non è successo niente, no, ok. Che è successo? Altra notizia. Vai, Ciccio, con l'altra notizia. L'altra notizia ci arriva praticamente dall'Inghilterra. Così facciamo Inghilterra, poi saliamo in Scozia e... completiamo il tour dell'All Green. Praticamente il progetto è Paven, è un progetto che ha l'obiettivo di produrre energia elettrica in maniera pulita, utilizzando una risorsa praticamente limitata e un costo quasi nullo. E i passi delle persone. Ricordo una persona, volevo salutarla, Vittoriccio Pastina, che è uno sbraco, che sempre ogni volta che attaccava un concerto, così salutiamo anche tutti, Stato Puro, in un suo pezzo pasti, diciamo, i pasti fanno rumore, non lo so Vittorio, ma sicuramente fanno, produrranno energia. Praticamente si tratta di utilizzare l'energia cinetica prodotta dalle persone durante una passeggiata, sfruttando appositi sistemi di conversione posti sull'asfalto a tale scopo. Questi dispositivi comunque saranno ideati con materiale riciclato, e il progetto praticamente sarà ideato comunque su questi blocchi, che comunque durante le passeggiate delle persone permetteranno la produzione di energia elettrica. E non lo so, volevano, sarà ideato dallo stadio olimpico a Londra fino a un centro commerciale, non lo so, si parlava di l'incremento di persone di un milione di persone per un anno, quindi immagina quanto passi, Peppe, ha voglia di passi. L'altra notizia ci arriva dalla Scozia. La Scozia che praticamente, oltre ad aver installato nel dicembre del 2011 sott'acqua una turbina alta 30 metri, e lo stesso progetto adesso vorranno riportarlo qui in Calabria per lo stretto di Messina, c'è proprio una Calabria che sta spaccando i culi, guarda proprio avanti, guarda l'Inghilterra stessa, bell'esempio. Naturalmente non ci saranno nemmeno infiltrazioni della malavita anche qui. Comunque, ritornando dalla Scozia, si è dopo comunque la turbina alta 30 metri del 2011 che è stata installata e che sta generando comunque energia, sono state installate un nuovo parco eolico, però questa volta sottomarino, Peppe, praticamente che sfrutta le correnti dell'oceano, lì nella Scozia l'oceano si è sempre un movimento non costante ma consistente. No, ma mi domandavo sul fatto che vogliono mettere tutti questi paleoliche pure nello stretto di Messina. Si vuole fare tutto nello stretto di Messina, si vogliono i ponti, paleoliche, terremoto, tutto si vuole fare lì. Perché questa energia, insomma, questo volevo dire, insomma, in Calabria abbiamo bisogno di tutta questa energia qua, in Sicilia. Stiamo facendo la Calabria sta diventando la centrale energetica dell'Italia. Poi si costruiscono immensi campi eolici, parchi eolici, pannelli solari, tutto c'è in Calabria. E poi non abbiamo niente, però. Si costruiscono dei viadotti immensi che poi portano l'energia al nord. Ma non ha più senso costruire direttamente lì ed evitare questi viadotti. Che ci servono in Calabria tutti questi impianti energetici? Se il nostro fabbisogno è molto inferiore a quello che soddisfa attualmente la Calabria, perché ne costruiamo ancora? Boh. Vabbè, perché sostanzialmente, Peppe, è meglio comunque anche investire su determinati progetti, sull'energia nucleare, oppure, non lo so, anche sulle centrali a biomasse. No, dico, infatti, però ne abbiamo già abbastanza energia qui, perché costruirne ancora? Siamo arrivati a un punto che l'energia non ci serve più, costruiamo energia in più così per portarla in giro. Come se quando ti mangi un piatto di pasta, quando hai finito di mangiare, te ne mangi ancora fino a scoppiare. Perché? Vabbè, perché comunque c'è anche da valutare il fatto che tantissima energia che viene prodotta dagli impianti arriva da ditte straniere, e comunque viene venduta all'Italia questa energia. Cioè, è paradossale questa cosa, ma anche se il prodotto nasce nel tuo territorio, tu devi pagare alla ditta che viene dall'estero a costruire qui questo prodotto, quindi comunque ci sono sempre spese da fare. E poi per l'energia è il motore della vita, come diciamo, quella pubblicità non me la ricordo. Vabbè, comunque forse è una pubblicità che parlava di vino, o no? Non parlava di vino? Ah, quello lì, ma non era l'energia, era un'altra cosa, quello col baffo, o no? Eh sì, una stronza dell'Enel comunque. No, e appunto poi abbiamo pure la pesantezza dell'Enel, perché comunque va a investire anche lei su tutti questi prodotti. Comunque no, è buono, meglio energia e magari, non lo so, rimpiazzare tutte queste pale con... sfruttiamo anche il mare, sfruttiamo. E non andiamo a distruggere i boschi, le foreste e quello che ci circonda, Peppe. A mutilare questo territorio, sfruttiamo quello che c'è, ma in modo consapevole. Ok, direi che è arrivato il momento di un altro pezzo, Peppe. Direi che ci stanno anche, anzi, dato che abbiamo parlato della nostra amata terra, le dedichiamo questo pezzo a lei. Stilla. Figliola chi teme, rissa tu vaglia, vorriamo saccio di così ti figlia, da vita a camminata di la quaglia, quando cammini lume cori s'assottiglia, quando cammini lume cori s'assottiglia. E a mezzo mare c'è una villa nuova, li turchi si la giocano a primera, e a ninta c'è una bella vigliola, di nome che si chiama Stilla Chiara, di nome che si chiama Stilla Chiara. E in tasta notte luna balla una bella vigliola, e danza col vento come un'onda di mare, e danza col vento come un'onda di mare. Alla spagnola e si li vota la palermitana, lo sai chi ti manca bello si regina, lo stemma d'ore la sacra corona, lo stemma d'ore la sacra corona. A fila di Palermo poi chi splenduri, che bella di lisetti cantoneri, quando ne si istitui ne esci ulusuli, ne sciro nove raggi e degli sferi, ne sciro nove raggi belle degli sferi. Sono la mezzanotte e mi indevaio, lo ci ridasso a tia ed è non viu, vaio all'uletto e riposo non aiu, sperando mi fa giorno bella mutiviu, sperando mi fa giorno bella mutiviu. Urulla serpina viru rigetto, ma lo mio amore non rigetta mai, tutta la notte mi levo e m'assetto, e ho sonno all'occhi miei, non scindi mai, e ho sonno all'occhi miei, bella, non scindi mai. In tasta notti luna balla una bella figliola, e danza col vento come un'onda di lumari, e danza col vento come un'onda di lumari. Di vicino è una colonna d'oro. Mamma si non mi insur, e un mila taglio, su talo focarillo bella mi rampendo, su talo focarillo bella mi rampendo. E da stanotte luna balla una bella figliola, e danza col vento come un'ombra di lumari, e danza col vento come un'ombra di lumari. Dopo questa bellissima tarantella di Nino Cavallaro con Bella Figliola qua a Stilla Chiara, che dedichiamo a, ad Adrienne e a Gaetano, Bella Figliola, tra un pochettino avremo la telefonata del nostro inviato speciale, l'indignato Starlos. Lui con le sue vaticanate, con la sua voglia di dire alla radio, di non essere censurato, Tarlo, che è un grande. Lui è il nostro bug del sistema, l'abbiamo inviato a Roma per distruggere il sistema e ci sta riuscendo. Ha distrutto prima il sistema qui e adesso lo sta registrando anche lì. Tra un poco partirà la telefonata a Tarlo, ma intanto cedo il microfono a Ciccio Marino. Allora, scusa, Ciccio, vai Ciccio. Grazie, beh. Ritorniamo sulla scena Moos, il progetto che sta portando comunque scontri e su scontri in Sicilia per la costruzione di queste antenne militari americane. Gli scontri comunque continuano e ci sono stati comunque gravi incidenti nella notte del 30 gennaio 2013, corrente anno. La volontà comunque è quella di fermare i lavori per impedire la costruzione di questo ecomostro che porterà comunque degli squilibri a livello potrà portare degli squilibri a livello proprio a colpire il sistema immunitario delle persone, perché comunque sono delle antenne che viaggiano con una portata superiore a quella consentita. Basti pensare che, non lo so, in America vengono costruite nel deserto del Messico, un posto non abitato, e qui in Italia vanno a concentrarle vicino ai centri urbani. Naturalmente, grazie America per averci salvato. Grazie. Prossima notizia, un attimo, viene da Vicenza, Peppe, praticamente, nomadi fatti scendere dal bus perché puzzano, è il regolamento. Vicenza, niente, un autista ha fermato quattro nomadi che, provvisti di biglietto regolarmente, non come fai tu, Peppe, che usi i mezzi pubblici senza... Non è vero, io sempre non pagate il biglietto, non l'ho mai pagato, Ciccio, non dire stupidaggini. Io non l'ho mai pagato. Infatti ho detto che non l'ho mai pagato. Io l'ho pagato, volevo dire. Che non l'ho mai pagato. Va bene, Peppe, comunque, come te, sono stati invitati a scendere al mezzo pubblico a causa del loro cattivo odore. Si pensa puzzassero, non lo so, di alcol, erano vestiti in modo, diciamo, da disturbare gli altri passeggeri. Alla fine, Peppe, quando ho letto questa notizia mi sei venuto in mente tu. Provvista di biglietto, provvista di biglietti. Puzza di alcol. Diciamo dopo le 19, anche prima, se non sbaglio. Vestiti, vabbè, capita quel giorno che ti lavi sempre tu, Peppe. Dice di sì. Va bene, alla fine comunque rassicuriamo le persone, perché il sindaco di Vicenza ha detto che non si tratta di un problema di razzismo, ma è un modo come tanti di tutelare il controllo pubblico. Permettendo il fatto che mi lavo tutti i giorni, vabbè, questo non interessa agli ascoltatori, è che non pago il biglietto, va bene. Perché non prendo il pullman, perciò non pago il biglietto. Perché non ci sono i servizi, diciamo. Che volevo dire? Non è stato un fenomeno di razzismo, ma di xenofobia, Ciccio. Va bene, chiamiamo in un altro modo. Adesso che facciamo? Andiamo il pezzo? Mandiamo un pezzo e poi il nostro indignados è il Tarlito, colui che sa le cose di Roma. Mandiamo Rosa o Caparezza? Mandiamo Brunori, dato che Tarlo è un grande. Rosa, non piangere dai, anch'io mi voglio sposare, e che senza un lavoro non si tira a campare. Devo prendere il treno per andare a Milano, a Torino, a Bologna, insomma devo scappare. Che qui in Calabria non c'è niente, proprio niente da fare, c'è chi canta e chi conta e chi continua a pregare. San Francesco sopra il letto e sul cruscotto c'è la Madonna di Pompei, sopra la 126. Rosa, non ti preoccupare, non è mica la luna, vado a fare fortuna e poi ti torno a pigliare. ti porto anche al mare. Busta paga, contributi, documenti e codice fiscale. Nonostante la nebbia non si sta poi così male. Il Sant'Ambrogio da Milano è sopra il Duomo, c'è la Madonna di Pompei. A me mi pare proprio lei. Si sposa con me. Rosa, prova e si sposa, prova e si sposa con me. Rosa, prepara il corredo, che ho trovato una casa, manca solo la sposa, la cucina e l'arredo. 188 cambiali, trattamento di favore, se lavoro 16 ore al giorno ce la posso fare. Tu pensa alle bomboniere e alla roba da mangiare, ed avverti pure il prete che ti porterò all'altare. Pace in terra, gloria in cielo, e sotto il velo c'è la Madonna di Pompei. Mi pare tale qual è lei. Rosa, promesse si sposa, promesse si sposa con me. Rosa, promesse si sposa, promesse si sposa con me. Rosa, mi guardi un po' strano, 15 ore di treno, sono appena tornato, non mi dici ti amo. Forse per via della mano, te l'avevo già detto, lavoravo alla morsa e per fare ricorsa l'ho lasciata a Milano. E certo che ho perso il lavoro, sono invalido civile, non so manco che vuol dire, ma mi danno la pensione. Piuttosto dammi una spiegazione sulla partecipazione, ci deve essere un errore, già t'ho scritto un altro nome. E non è il mio, e non è il mio, e non è il mio. Rosa, Rosa, Rosa, domani si sposa, vestita la sposa, non si sposa più con me. Anche se per la mia voce, però va bene, dai. Sì, va bene, no, dovevamo fare questo collegamento già settimana scorsa, però per problemi tecnici è saltato. In pratica la notizia è che il giorno 25 gennaio, esattamente due settimane fa, è stato sgomberato Scoop, che è in pratica una palazzina che è stata occupata a maggio scorso, dove era stata allestita una palestra popolare. Pronto? Sì, era stato allestito una palestra popolare, una biblioteca, osteria, spazio bambini e quant'altro, insomma una serie di servizi che mancava nel quartiere di San Giovanni, che è abbastanza, una zona abbastanza centrale di Roma. Ci siete, ragazzi? No, in pratica è questo, cioè dopo quasi 9 mesi di attività è arrivato questo sgombero un po' a sorpresa, e diciamo che è partita alla grande la campagna elettorale di Aleman all'insegna degli sgomberi di tutti, di buona parte degli spazi sociali. Pronto? Non ho capito la domanda. Sì, l'ennesima prova della repressione che stiamo vivendo in questo periodo, questo panorama un po' di campagna elettorale, dove ognuno prova a dire la sua e ad attuare la sua campagna politica. Quella di Alemanno sappiamo che, essendo una politica abbastanza fascista, è fatta di sgomberi e repressione. Non ci meravigliamo di questo fatto. Teoricamente sì, ma praticamente c'è ancora molta gente che lo pratica e che la pensa in quel modo. E i fatti ne danno la prova. Sì, ha una sede proprio qua vicino, ricordiamo che San Giovanni si trova nel quartiere Esquilino e la sede di Casa Pound sta appunto nel quartiere Esquilino, praticamente nello stesso quartiere. Cosa? Ma sinceramente noi non ci teniamo a salutare questa gente. Ovviamente sì. Sì, repressione del sgombero è quello che pensano loro. In pratica qui era stato costruito dal nulla un centro dove si erano allestiti tanti servizi che mancavano nel quartiere, cioè una biblioteca popolare, un mercatino che veniva allestito la prima domenica del mese e che comunque ieri si è fatto, perché ricordiamo che la sera stessa dello sgombero è stata occupata un'altra palazzina a 200 metri di distanza da lì. È un ex deposito Alex. Immagino. Vabbè, l'ultima battuta, ne approfitto per salutare tutti gli amici dell'Università della Calabria, del collettivo Pido Occupata. Di Fuori Onda Radio. Speriamo, attrezzatevi con mezzi migliori. Salutiamo il nostro amico Tarlo da Roma. Non so, hanno detto che i nostri ascoltatori che si è sentito poco e niente, per la prossima volta cercheremo di ampliare il servizio per te. C'è bisogno di servizio. Passiamo al prossimo pezzo, il prossimo pezzo che è di un gruppo comunque che ha scritto la storia del metal. Questi sono i Pantera, caro Peppe, con... Thank you. piace, quello che ci piace. A me non piace tanto il metal, no, è buono il metal, così tranquillo. Però vabbè, se gli artisti sono artisti in qualsiasi genere, anche nei generi che uno piacciono di meno, come il metal. Clandestino Cid manda musica di ogni genere, quindi siamo passati dalle tarantelle di un Mocavallaro ai Pantera, quindi diciamo siamo molto variegati. Come quel gelato, come si chiama, l'affogato, variegato. Vabbè, comunque ti correggo, il Cavallaro non sono tarantelle, quella è musica popolare, calabrese. La musica popolare va dalle tarantelle alla mano melodica, alla pizzica stessa, comunque sull'alto ionio. No, c'è la pizzica salentina, alto ionio, quello calabrese. E in Puglia, vabbè, dove si va a ballare. Vabbè, tarantella non è una cosa dispregiativa, Ciccio. Tarantella è la musica popolare calabrese, quindi se la vogliamo chiamare musica popolare si chiama tarantella. Se come tu ti chiami Ciccio, non è che ti offendi, ti chiamo Ciccio. Questo è il discorso. Non è il pazzo del discorso della tarantella, posso dire i Pantera fanno buon blues. Non è blues, è sempre musica, però non è blues. Ok. Ripartiamo, niente Peppe, adesso diamo una mano ai nostri amici salutisti. Sono gli amici salutisti, quelli che fanno ciao. Pessima, i tuoi coinquilini, sì, toglietelo fuori stasera, dormirà fuori Peppe. No, praticamente un passo ai vegetariani, Peppe. Shock, i vegetariani uccidono più animali di chi mangia carne. È uno studio che ha rivelato praticamente, con date alle mani, Peppe, che i vegetariani uccidono... salutiamo Maria, infatti, Ciccio, che ci ascolta da Londra, no, un altro è vegetariano pure, Lupino. No, vabbè. Beve birra, ok, va bene. La birra comunque sembra prodotto vegetale. Comunque, i vegetariani che uccidono in realtà molto più animali degli onnivori. Questo ce lo spiega il professore Mike Harken, dopo anni di studi e ricerche mirati. Non sembra uno scherzo, eppure non lo è. Anni di convinzione andati in fumo grazie a uno studio condotto all'Università di New South Wales in Australia. I ricercatori hanno scoperto che i vegetariani, coloro che ritengono che mangiare carne non sia etico, in realtà uccidono più animali in misura 25 volte maggiori di quanto facciano gli onnivori. Praticamente i vegetariani, come c'è scritto qui nell'articolo, ritengono che l'allevamento danneggi l'ambiente e che sprechi vegetali. Il professore dell'università che ha condotto lo studio, un certo Harker, ha dimostrato invece che la produzione dei vegetali consumati dall'uomo possa uccidere un numero di animali 25 volte superiore per chilogrammo di proteine utilizzabili prodotte. Rispetto a quanto avviene per la produzione di carne. La maggior parte dei bovini macellati si nutrono di vegetazione spontanea e la produzione di grano, riso, legumi comporta proprio l'eliminazione di vegetali spontanea. Il tutto comporta, secondo la logica, la morte di migliaia di animali la cui sopravvivenza è legata a quel determinato tipo di vegetazione ed ecosistema. Dal pasto non si ottengono vegetali consumabili dall'uomo e al fine di ottenerli si rischia solo di distruggere nuova vegetazione spontanea. Comunque lo studio ha stimato che un bovino cresciuto al pasco abbattuto rende una carcassa di 288 kg per un 68% di carne, 45 kg per un 23% di proteine per animale ucciso. Per ottenere 100 kg occorre quindi abbattere 2,2 animali. Per esempio nelle coltivazioni di frumento vengono uccise almeno 100 topi per ettaro ogni anno e chi ama gli animali non fa distinzione di specie. Beh, sono punti di vista, comunque noi ribadiamo il nostro messaggio che la clandestinocide è contro gli allevamenti intensivi, contro gli allevamenti di massa, diciamo per un vivere più biologico, non certo etico, per comunque ci piace mangiare sano, per comunque non facciamo distinzioni. Se qualche volta, non lo so, anche Maria ci inviterà nella sua cucina a degustare dei piatti vegetariani, saremo contentissimi, vero Peppe? Diciamo di sì, dai. Mangiare vegetariano ogni tanto fa bene, però la carne, il pesce, secondo me ci vogliono, perché mi piacciono, quindi li gradisco. Cicci. Tu non potresti quindi vivere in Svezia, Peppe, che ha proposto la tassa europea sulla carne, caro Peppe, per ridurre comunque e incentivare viceversa la produzione vegetale. La Svezia che si pone dalla parte degli ambientalisti contro gli allevamenti di massa, contro gli allevamenti contro gli allevamenti intensivi, e contro è un modo anche per debellare in un certo senso diabete, patologie quali diabete, ipertensione, ipercolesterolemia e tante altre, Peppe, tante altre. Come sei informato sulle malattie, Cicci? Come le fai a conoscere? Mi informo e studio. Mi informi, cos'è un pane? Va bene, passiamo al prossimo pezzo, dai. Il prossimo pezzo che è di Caparezza, La finta staiola dell'ingiuria. Un pezzo di... Di Branduardi. Lo salutiamo, ciao Angelo. E i suoi ricci, come i tuoi. Chi follemente spera che toppi carriera da sera mattina si ostina, ti caghi nella mia bambolina, mina la via che l'anima mia cammina, mi pedina. Il fatto è che se sfugo alla logica tragica è la fine che mi si propina. L'acqua che butti sul mio fuoco diventa benzina, ogni insulto è manichino per la mia vetrina. Sappi che la mia dottrina se ne fotte di chi sta dopo e chi prima. Chi mi stima mi stiga, stilare sti suoni, sti versi e sti ca. Godo se penso all'amaro che mastica, chi pronostica la fine della mia vitalità. Mi piace che mi grandini sul viso sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Mi piace che mi grandini sul viso la finta sassaiola dell'ingiuria, mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Fonda la tua gloria sull'ingiuria, lava di denti col sels come furia, smile siamo in aria canta vittoria, mai io ti sputerò come se d'anguria. C'è penuria di muria, di viti alla memoria, pura vanagloria. Fa male come un dente che si caria, il mio debole per le vittime della storia. Li hanno odiate, umiliate, lasciate alla sorte per fargli la corte. Dopo la morte mi faccio forte di un simile supplizio, ed è per questo che schifo ogni giudizio. Ho la riflessione come vizio, il mio fine è fare di ogni fine un buon inizio. Mi sazio di un dizionario vario, più dei santi del calendario. Mi piace che mi grandini sul viso la finta sassaiola dell'ingiuria, e a quanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Mi piace che mi grandini sul viso la finta sassaiola dell'ingiuria, e a quanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Mi piace sapermi diverso, piacere perverso che riverso in versi, su fogli sparsi nei capoversi dei giorni persi nei miei rimorsi. Che cosa c'è da aspettarsi da chi come me non sa adeguarsi a sette mafiette, etichette, se tutti fanno lui smette. Chi vanno mette le tette della scultura ne ignora l'amore e la cura, ciocca dopo ciocca mi sono fatto sta capigliatura, come un tiranno tra le mura non ho paura. C.A.P. hanno fregatura, monnezza pura, senti che attrezzatura è la mistura che infuria nella fitta sassaiola dell'ingiuria. Piace che i migranti sul viso la finta sassaiola dell'ingiuria, e a quanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. Mi piace che i migranti sul viso la finta sassaiola dell'ingiuria, e a quanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia capigliatura. E dopo questo pezzo di Caparezza, Feat Branduardi. Feat cosa vuol dire? Picce. Sempre questo Feat. Tutti si domandano cosa vuol dire e Ciccio lo sa, perché Ciccio è informato, si informa. Mentre io non sono abbastanza informato e quindi non lo sapevo, forse. No, forse lo sapevo. È una sorta di in collaborazione con... Invece di dire con mettono Fiat, che è più figo perché è inglese, no? No, perché il termine è giusto per dire in collaborazione con. Ok, il termine è giusto, va bene così. Intanto chiudiamo, Cic. Diciamo che si è fatta pure ora. La gente può andare a dormire. O no? Nessun dorma. No, sì, tutti dobbiamo perché gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Che dire, Peppe, questa sera comunque alla fine è una bella puntata, anche se abbiamo ricevuto il nostro primo due di picche dal nostro ospite, invece dello standardo metteremo un due di picche, beh. Lo terremo fino alla prossima settimana. E niente, io saluto tutti coloro che ci hanno ascoltato. Faccio proprio una scarrellata o carrellata, Peppe? Come vuoi, pure una rimorchiata. Vabbè, una rimorchiata di saluti, partendo da Tarlo, che abbiamo già salutato, Lazzar, Falbo Lucia, Marta, Federica, Raffaele, Fabrizio, il Royal Cafe Pub, Peppone, Vittorio, Peppissimo. Poi salutiamo il nostro amico che ci ascolta dalla Francia e ti aspettiamo, caro Adrien Wewemec. Salutiamo i nostri amici dalla Spagna, Pep, dalla Spagna, da Valencia, Riccardo, Carmeta. Poi salutiamo anche da Santiago Maria, Margarita, Diego, Gonzalo anche, José. Salutiamo Maria, che ci ascolta da casa sua, non lo so, Pierpaolo da Livorno, e Lorenzo che c'ha un blues allucinante dalla Blues House. Salutiamo naturalmente tutti i ragazzi del server, e salutiamo il nostro Rino. Sempre un saluto a Rino, un abbraccio particolare al nostro Rino, è un grande. E salutiamo quelli del server di GIS, che come al solito ci hanno i problemi, ma ricordiamo che GIS.tv è una piattaforma che permette lo streaming di radio, è una piattaforma libera, indipendente, free, tutte quelle cose belle là. E quindi è normale che ogni tanto hanno dei problemi, dato che non paghiamo una lira per andare da loro. Sono gente che è al servizio della comunità, quindi un applauso, diciamo, a questi di GIS.tv, un applauso anche a quelli di archivio.org, dove carichiamo il nostro podcast, che è un altro servizio di condivisione file personali su internet, che è sempre gratuito, è libero soprattutto contro le censure. E ricordiamo che stiamo trasmettendo da piattaforma GNU Linux, con sistemi, con programma tutti liberi. Noi siamo per la libertà, quindi utilizziamo software libero. Basta con questa imposizione del software Microsoft, basta. E quell'altra cosa, Apple. Quindi vi salutiamo, vi diamo una buonanotte. Chiudiamo con un pezzo. Appuntamento, ricordiamo, a lunedì prossimo. Ci sarà un altro artista emergente, che è andato sott'acqua, quindi emergerà tra qualche giorno. E l'ospite, vediamo se ci sarà l'ospite del 2 di picco oppure ci sarà l'ospite della, che ne so, Regina di Cuori, forse quella di Piero Pelù. Sì, infatti è una regina, andiamo bene. Comunque allora, il prossimo pezzo è di Johnny Cash e lo dedichiamo ad Antonietta, e la salutiamo. Un saluto a Antonietta e Stefania pure, che li volevo salutare in chiusura, naturalmente non mi sono dimenticato di loro, che ci ascoltano sempre. Andiamo con Johnny Cash. And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame.